terzo anello ad alta voce. Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Si lamentavano a volte i miei fratelli e mia madre perché s'annoiavano in quelle villeggiature in montagna e in quelle case isolate dove non avevano svaghi né compagnia. Io, essendo la più piccola, mi divertivo con poco e la noia della villeggiatura non la sentivo ancora in quegli anni. «Voi altri», diceva mio padre, «vi annoiate perché non avete vita interiore». Un anno eravamo particolarmente senza soldi e sembrava che dovessimo restare in città l'estate. Fu poi fissata all'ultimo momento una casa che costava poco in una frazione di un paese che si chiamava Saint-Jacques d'Ayas. Una casa senza luce elettrica e coi lumi a petrolio. Doveva essere molto piccola e scomoda, perché mia madre tutta l'estate non fece che dire «vacca d'una casa, malignazzo d'un Saint-Jacques d'Ayas». La nostra risorsa furono certi libri, 8 o 10 volumi rilegati in pelle, fascicoli rilegati di non so che settimanale, con sciarade, rebus e romanzi terrorizzanti. Li aveva prestati a mio fratello Alberto un suo amico, un certo Frinco. Ci nutrimmo dei libri di Frinco per tutta l'estate. Poi mia madre fece amicizia con una signora che abitava nella casa accanto. Attaccarono discorso mentre non c'era mio padre. Lui diceva che era da negri discorrere coi vicini di casa. Ma siccome poi si scoperse che questa signora, la signora Guirand, stava a Torino nella stessa casa della Francis e la conosceva di vista, fu possibile presentarla a mio padre, il quale diventò con lei molto gentile. Difatti mio padre era sempre diffidente e sospettoso nei riguardi degli estranei, temendo che si trattasse di gente equivoca, ma appena scopriva con loro una vaga conoscenza in comune, si sentiva subito rassicurato. Mia madre non faceva che parlare della signora Guirand e mangiavamo a tavola pietanze che la signora Guirand ci aveva insegnato. «Nuovo astro che sorge!» diceva mio padre ogni volta che si nominava la signora Guirand. «Nuovo astro che sorge» o soltanto «nuovo astro» era sempre l'ironico suo saluto ad ogni nostra nuova infatuazione. «Non so come avremmo fatto senza i libri di Frinco e senza la signora Guirand», diceva mia madre al termine di quell'estate. Il nostro ritorno in città quell'anno fu segnato da questo episodio. Dopo un paio d'ore di corriera, raggiunta la stazione ferroviaria, salimmo in treno e prendemmo posto. D'un tratto ci accorgemmo che tutti i nostri bagagli erano rimasti a terra. Il capotreno, alzando la bandiera, gridò «Partenza! Partenza un corno!» fece allora mio padre, con un urlo che echeggiò per tutto il vagone. E il treno non si mosse finché l'ultimo nostro baule non fu caricato. In città dovemmo separarci con strazio dai libri di Frinco, perché Frinco li rivoleva indietro. E quanto alla signora Guirand, non la vedemmo mai più. «Bisogna invitare la signora Guirand, è uno sgarbo», diceva a volte mio padre. Ma mia madre era quanto mai mutevole nelle sue simpatie e instabile nelle sue relazioni, e le persone o le vedeva tutti i giorni o non voleva vederle mai. Era incapace di coltivare conoscenze per puro spirito di urbanità. Aveva sempre una paura matta di stufarsi e aveva paura che la gente venisse a farle visita quando lei voleva andare a spasso. Mia madre vedeva le sue amiche, sempre le stesse. A parte la Francis e alcune altre che erano mogli di amici di mio padre, mia madre le sue amiche se le sceglieva giovani, un bel po' più giovani di lei. Giovani signore sposate da poco e povere. A loro poteva dare consigli e suggerire delle sartine. Le facevano orrore le vecchie, come lei diceva, alludendo a gente che aveva pressappoco la sua età. Le facevano orrore i ricevimenti. Se una delle sue anziane conoscenze le mandava a dire che sarebbe venuta a farle visita, era presa dal panico. «Allora oggi non potrò andare a spasso», diceva disperata. Quelle amiche giovani, invece, poteva tirarsele dietro a spasso o al cinematografo. Erano maneggevoli e disponibili e pronte a mantenere con lei un rapporto senza cerimonie. E se avevano bambini piccoli, meglio, perché lei amava molto i bambini. Accadeva a volte che il pomeriggio queste amiche venissero a trovarla tutte insieme. Le amiche di mia madre si chiamavano, nel linguaggio di mio padre, le babe. Quando si avvicinava l'ora di cena, dal suo studio mio padre urlava a gran voce: «Lidia! Lidia! Sono andate via tutte quelle babe!» Allora si vedeva l'ultima baba, sgomenta, scivolare nel corridoio e sgusciare via dalla porta. Quelle giovani amiche di mia madre avevano tutte di mio padre una gran paura. A cena mio padre diceva a mia madre: «Non ti sei stufata di babare? Non ti sei stufata di ciaciare?» Venivano a volte a casa nostra, la sera, gli amici di mio padre, come lui professori di università, biologi e scienziati. Mio padre, quando si preannunciavano quelle serate, a cena chiedeva a mia madre: «Hai preparato un po' di trattamento?» Il trattamento erano tè e biscotti. I liquori in casa nostra non entravano mai. A volte mia madre non aveva preparato nessun trattamento e mio padre allora s'arrabbiava. «Come? Non c'è trattamento? Non si può ricevere la gente senza dar trattamento? Non si può fare delle negrigure?» Tra gli amici più intimi dei miei genitori c'erano i Lopez, e cioè la Francis e suo marito, e i Terni. Il marito della Francis si chiamava Amedeo, ma era soprannominato Lopez, ancora dal tempo che era insieme a mio padre studente. Il soprannome che aveva mio padre da studente era Pom, che voleva dire pomodoro per via dei suoi capelli rossi. Ma mio padre, se lo chiamavano Pom, si arrabbiava moltissimo e permetteva soltanto a mia madre di chiamarlo così. Tuttavia i Lopez dicevano, parlando fra loro della nostra famiglia, i Pom, allo stesso modo come noi dicevamo di loro i Lopez. La ragione di questo soprannome che aveva Amedeo nessuno ha mai saputo spiegarmela e si era persa, credo, nella notte dei tempi. Amedeo era grasso, con ciocche di capelli fini e candidi come la seta. Parlava con la R, come sua moglie, e come i loro tre figli maschi, nostri amici. I Lopez erano molto più eleganti, più raffinati e più moderni di noi. Avevano una casa più bella, avevano l'ascensore e il telefono, che in quegli anni non aveva ancora nessuno. La Francis, che andava spesso a Parigi, portava di là le ultime novità in fatto di vestiti e di mode. E un anno portò un gioco cinese in una scatola con dipinti dei draghi, che si chiamava Mahjong. Loro avevano imparato tutti a giocare a questo Mahjong, e Lucio, che era il figlio più piccolo dei Lopez e mio coetaneo, si vantava sempre con me di questo Mahjong, ma non volle mai insegnarmelo. Diceva che era troppo complicato e che sua madre non lasciava toccare la scatola. E io mi struggevo di invidia, vedendo in casa loro la preziosa scatola, proibita e piena di mistero. Quando i miei genitori andavano la sera dai Lopez, Mio padre al ritorno magnificava la loro casa, i mobili e il tè che veniva servito su un carrello in belle tazze di porcellana, e diceva che la Francis sapeva più fare, cioè sapeva trovare bei mobili e belle tazze, sapeva come si arreda una casa e come si serve il tè. Se i Lopez fossero più ricchi o più poveri di noi, non si sapeva bene. Mia madre diceva che erano molto più ricchi, ma mio padre diceva di no, che erano come noi, senza tanti soldi. Soltanto la Francis sapeva più fare e non era mica un impiastro come siete voi altri. Mio padre si sentiva del resto poverissimo, specialmente la mattina presto, quando si svegliava. Svegliava anche mia madre e le diceva: «Non so come faremo ad andare avanti. Hai visto che le immobiliari sono andate giù?» Le immobiliari andavano sempre giù, non salivano mai. «Quelle malignazze di immobiliari», diceva sempre mia madre, e si lamentava che mio padre non aveva nessun senso degli affari e appena c'era un titolo cattivo, subito lo comperava. Lei spesso lo pregava di rivolgersi per consiglio a un agente di cambio, ma lui allora si infuriava perché voleva in questo, come in tutte le altre cose, fare di testa sua. Quanto ai Terni, erano molto ricchi. Tuttavia Mary, la moglie di Terni, era di abitudini semplici, frequentava poca gente e passava le giornate in contemplazione dei suoi due bambini insieme alla bambinaia Assunta, che era tutta vestita di bianco. E facevano, tanto Mary come la bambinaia che la imitava, un sussurro estatico. Anche Terni faceva sempre in contemplazione dei suoi bambini. Faceva del resto su tutto, sulla nostra serva natalina, tutt'altro che bella, e su certi vestiti vecchi che vedeva indosso a mia sorella e a mia madre. Di ogni donna che vedeva, diceva che aveva un viso interessante e che rassomigliava a qualche quadro famoso. Restava qualche minuto in contemplazione e si toglieva la caramella, ripulendola in un fazzoletto bianchissimo e fine. Terni era un biologo e mio padre ne aveva, riguardo agli studi, una grande stima. Usava però dire quel sempio di Terni, perché trovava che era nel vivere un poseur. «Terni posa», diceva di lui ogni volta dopo che l'aveva incontrato. «Credo che posi», riprendeva dopo un po'. Quando Terni veniva a trovarci, si fermava in genere nel giardino con noi a parlare di romanzi. Era colto, aveva letto tutti i romanzi moderni e fu il primo a portare in casa nostra la Recherche du temps perdu. Credo, anzi, ripensandoci, che cercasse di rassomigliare a Swann con quella sua caramella e col vezzo di scoprire in ciascuno di noi parentele con quadri famosi. Mio padre, dallo studio, lo chiamava a gran voce perché venisse a parlare con lui di cellule dei tessuti. «Terni!» urlava. «Venga qua! Non faccia tanto il sempio! Non faccia il pagliaccio!» gli urlava quando Terni, con i suoi sussurri estatici, cacciava il naso nelle tende logore e polverose della nostra stanza da pranzo, chiedendo se erano nuove. Le cose che mio padre apprezzava e stimava erano il socialismo, l'Inghilterra, i romanzi di Zola, la fondazione Rockefeller, la montagna e le guide della Val d'Aosta. Le cose che mia madre amava erano il socialismo, le poesie di Paul Verlaine, la musica e in particolare il Lohengrin, che usava cantare per noi la sera dopo cena. Mia madre era milanese, ma di origine triestina anche lei, e d'altronde aveva sposato con mio padre anche molte espressioni triestine. Il milanese veniva a mescolarsi nel suo parlare quando raccontava i ricordi di infanzia. Aveva visto un giorno camminare per strada a Milano, quando era piccola, un signore impettito, immobile davanti a una vetrina di parrucchiere che fissava una testa di bambola e diceva tra sé: «Bella, bella, bella, troppo lunga de col». Molti dei suoi ricordi erano così, semplici frasi che aveva sentito. Un giorno con le sue compagne di collegio e con le maestre era fuori a passeggio. D'un tratto una delle bambine s'era staccata dalla fila, correndo ad abbracciare un cane che passava. Lo abbracciava e diceva: «Lelè, lelè, lelè, lè la sorella della mia cagna!» Era stata in collegio molti anni. Si era divertita un mondo in quel collegio. Aveva recitato, cantato, ballato nelle feste scolastiche. Aveva recitato in una commedia travestita da scimmia e cantato in un'operetta che si chiamava La pianella perduta nella neve. Aveva scritto e musicato un'opera. La sua opera cominciava così: «Io son Don Carlos Tadrid e son studente in Madrid. Mentre andavo una mattina per la via Berzuellina, vidi a un tratto a una finestra una giovane maestra». E aveva scritto una poesia che diceva: «Salve, o ignoranza, al tuo pensier mi cessa il mal di panza. Salute regna ove tu sei, lasciam lo studio ai Maccabei. Beviam, danziamo e non pensiamo, facciamo festa. Or tu, musa, ispirami un concetto, dettami tu quel che mi dice il cuore. Dimmi tu che il filosofo è molesto, nell'ignorante trovasi l'amore». E poi aveva parodiato il Metastasio così: «Se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto, quanti mai che a piedi vanno se ne andrebbero in landò». Rimase in collegio fino a 16 anni. Andava la domenica a trovare un suo zio materno, che era chiamato il Barbizon. C'era a pranzo il tacchino. Mangiavano e dopo il Barbizon indicava gli avanzi del tacchino alla moglie e le diceva: «Quello lo mangeremo mie e ti domani mattina». La moglie del Barbizon, la zia Celestina, era chiamata la Barite. Qualcuno le aveva spiegato che dappertutto c'è della Barite, perciò lei indicava per esempio il pane sulla tavola e diceva: «Ti vede quel pan lì? L'è tutta Barite». Il Barbizon era un uomo rozzo, col naso rosso. «Col naso come il Barbizon», usava dire mia madre quando vedeva qualche naso rosso. Il Barbizon diceva a mia madre, dopo quei pranzi col tacchino: «Lidia, mi e ti che sembra chimica, de cosa spusa l'acido solfidrico?» «El spusa de pet, l'acido solfidrico el spusa de pet». Il vero nome del Barbizon era Perego. Certi amici avevano fatto per lui questi versi: «Bello è veder di sera e di mattina del Perego la ca e la cantina». Le sorelle del Barbizon erano chiamate le Beate, essendo molto bigotte. Thank you. Poi c'era un'altra zia di mia madre, la zia Cecilia, che era famosa per questa frase. Una volta mia madre le aveva raccontato che erano stati in pensiero per mio nonno, il quale tardava a rincasare, e temevano gli fosse successo qualche cosa. La zia Cecilia subito aveva chiesto: «E cosa avevate a pranzo? Risi o pasta?» «Pasta», aveva risposto mia madre. «Bon che non avevate i risi, perché sennò chissà che lunghi chi diventava!» I miei nonni materni morirono entrambi prima della mia nascita. La mia nonna materna, la nonna Pina, era di famiglia modesta e aveva sposato mio nonno, che era un suo vicino di casa. Giovanottino, occhialuto, distinto avvocato agli inizi della sua professione, che lei sentiva ogni giorno sul portone chiedere alla portinaia: «Ci sono lettere per me?» Mio nonno diceva «lettere» con un T solo e con le E strette. E questo modo di pronunciare quella parola sembrava a mia nonna un gran segno di distinzione. Lei lo sposò per questo, e anche perché desiderava farsi per l'inverno un cappottino di velluto nero. Non fu un matrimonio felice. Era da giovane questa mia nonna Pina, bionda e graziosa, e aveva recitato una volta in una compagnia di filodrammatici. Come si alzava il sipario, mia nonna Pina era là, con un pennello e con un cavalletto, e diceva queste parole: «Non posso continuare a dipingere. La mia anima non si piega al lavoro e all'arte. Essa vola lungi di qui e si pasce di idee dolorose». Mio nonno poi si buttò nel socialismo ed era amico di Bissolati, di Turati e della Kuliscioff. Mia nonna Pina rimase sempre estranea alla vita politica del marito. Siccome lui le riempiva di socialisti la casa, mia nonna Pina osava dire con rammarico della figlia: «Quella tosa lì la sposerà un gasista». Poi finirono col vivere separati. Mio nonno, negli ultimi anni della sua vita, aveva lasciato la politica e aveva ripreso a fare l'avvocato, ma dormiva fino alle 5 del pomeriggio e quando venivano i clienti diceva: «Cosa vengono a fare? Mandateli via!» Mia nonna Pina, negli ultimi anni, stava a Firenze e andava a volte a trovare mia madre, che intanto si era sposata e abitava a Firenze anche lei. Aveva però, mia nonna Pina, una gran paura di mio padre. Era venuta un giorno a vedere mio fratello Gino in fasce, che aveva un po' di febbre. Per calmare mio padre, che era tutto agitato, mia nonna Pina gli aveva detto che era forse una febbre della dentizione. Mio padre si era infuriato perché sosteneva che la dentizione non può dare la febbre. E mia nonna Pina, incontrando nell'uscire il mio zio Silvio, che veniva anche lui da noi, «Di snocche son i dent», gli sussurrò sulle scale. «Salvo, di sno che son i dent, quella tosa lì la sposerà un gasista e non posso continuare a dipingere», io di questa mia nonna non so nulla e non mi sono pervenute altre sue parole. Cioè, ricordo ancora che si ripeteva in casa nostra questa sua frase: «Tutti di che gene una, tutti di che gene una, la drusilla in quella rompio c'hai». Aveva avuto 3 figli: il Silvio, mia madre, e la Drusilla, che era miope e rompeva sempre gli occhiali. Morì a Firenze in solitudine, dopo una vita di molti dolori. Il suo figlio maggiore, il Silvio, si uccise a 30 anni, sparandosi alla tempia, una notte, nei giardini pubblici di Milano. Dopo il collegio, mia madre lasciò Milano e andò a stare a Firenze. Si iscrisse in medicina, ma non finì mai l'università, perché conobbe mio padre e lo sposò. Mia nonna, la madre di mio padre, non voleva quel matrimonio perché mia madre non era ebrea. E qualcuno le aveva raccontato che era mia madre una cattolica molto devota e che ogni volta che vedeva una chiesa faceva grandi inchini e segni di croce. Non era vero affatto. Nessuno nella famiglia di mia madre né andava in chiesa né faceva segni di croce. Mia nonna dunque per un poco si oppose. Poi accettò di conoscere mia madre e si incontrarono una sera a teatro, assistendo insieme a una commedia dove c'era una donna bianca finita tra i mori e una mora, gelosa di lei, arrotava i denti e diceva, guardandola con occhi terribili: «Coteletta, madama bianca, coteletta, madama bianca». «Coteletta, madama bianca», diceva sempre mia madre ogni volta che mangiava una cotoletta. Avevano avuto poltrone in omaggio per quella commedia perché il fratello di mio padre, lo zio Cesare, era critico teatrale. Era questo zio Cesare, tutto diverso da mio padre, tranquillo, grasso e sempre allegro. E come critico teatrale non era per nulla severo e non voleva mai dir male di nessuna commedia, ma in tutte trovava qualcosa di buono. E quando mia madre gli diceva che una commedia le sembrava stupida, lui s'arrabbiava e le diceva: «Ti te prova ti a scrivere una commedia come quella!» Lo zio Cesare sposò poi un'attrice e questa fu per mia nonna una grande tragedia. E per molti anni non volle che lo zio Cesare le presentasse sua moglie, perché un'attrice le sembrava ancor peggio di una che faceva i segni di croce. Anna Bonaiuto ha letto Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Regia di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it